finita così, senza un vero perché, ma ogni notte ti sento con me e mi chiedo se tu, anche tu, come me, resti sveglia e mi pensi con te. Sono lunghe le ore se tu non sei qui. Non ha senso la vita vissuta così. Se sei sola, anche tu come me, vuoi che torni da te. Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Se sei sola, anche tu come me, vuoi che torni?